30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Sono 270 le persone incriminate per la morte dei 34 minatori della Lonmin, la miniera alle porte di Pretoria in Sudafrica. Sono i 270 minatori compagni di quelli uccisi dalla polizia il 16 agosto scorso. Sono loro ad essere accusati di omicidio, secondo la procura locale, compresi coloro che erano disarmati o che si trovavano ai margini della folla che si confrontò con la polizia. Nessuna accusa al momento per gli agenti che negli scontri aprirono il fuoco contro i manifestanti. Per loro si attendono gli esiti della commissione d'inchiesta costituita dopo l'incidente. Cari amici, buonasera, ancora un saluto da Gigi Donelli. Questa sera torniamo in Sudafrica. In questo mese di agosto l'attualità ci ha riportato a momenti di violento scontro sindacale. Due settimane fa, al culmine dello scontro appunto tra i minatori di Marikana e la polizia, le forze dell'ordine avevano aperto il fuoco commettendo una vera e propria strage. In seguito l'azienda, che è il terzo produttore mondiale di platino, aveva aperto al confronto sindacale con gli operai che proseguono lo sciopero. Infatti meno del 7%, sono dati ufficiali, dei 28.000 uomini che compongono la forza lavoro locale si sta presentando appunto al lavoro. La prossima settimana verrà esaminata la richiesta di rilascio su cauzione degli arrestati, ma la mossa della procura sembra destinata nuovamente ad infiammare la situazione. Intanto, l'organismo di vigilanza del governo, l'Independent Police Investigative Directorate, ha fatto sapere di avere ricevuto oltre 200 denunce da parte dei minatori arrestati che sostengono di essere stati aggrediti o abusati mentre erano in stato di fermo. Insomma, una estate ancora, anzi inverno australe, estate per noi ancora molto tesa e drammatica, che segue di fatto quella che è la grande stagione degli scioperi delle miniere sudafricane. In questa sera, dicevo, torniamo in Sudafrica con una storia che avevamo raccolto grazie ad una visita. Infatti c'era venuta a trovare Caroline Nomfundo Pilisani, meglio nota come Mama Pilisani, una donna con un sorriso contagioso che da anni lavora in quella che viene chiamata in italiano la Casa del Sorriso, una delle zone più difficili di Cape Town, di Città del Capo. Beh, Mama Pilisani ha attraversato tutto il periodo storico dell'apartheid, poi ha studiato, è diventata preside e, terminata la fase più acuta del razzismo per legge, ha fatto i conti con l'emergere di un'altra discriminazione che prima stava nascosta, ed è la violenza, la discriminazione di genere, la violenza degli uomini verso le donne. C'era anche prima, naturalmente, solo che non la vedevamo, racconta Mama Pilisani. Lei la vedeva, la subiva anche con molte sue compagne. Bene, Mama Pilisani è dunque la protagonista di una avventura di speranza che ci riporta in Sudafrica con la sua voce e che ora vi racconta. Buongiorno. Allora, Mama Pilisani, cos'è la Casa del Sorriso? Mostly Casa del Sorriso is there for the community. La Casa del Sorriso è nata per portare un servizio alla comunità, una comunità particolarmente povera e degradata, che è quella di Filippi, una baraccopoli che sorge ai margini di Città del Capo. Filippi è appunto una comunità estremamente povera, dove uno dei servizi principali che mancavano e che CESVI ha portato è il counseling e i test gratuiti per l'HIV AIDS, l'HIV. Noi offriamo questo servizio attraverso due infermiere e cinque counselor che fanno la preparazione al test e il seguente lavoro con le persone che vengono testate per vedere come reagiscono al risultato dell'HIV. And we've got counselors and some nurses to do that work and it's safe. Ci può descrivere che cos'è Filippi? Ok, Filippi mostly people are building shacks. The shacks are made of zinc. Filippi è una baraccopoli, quindi costituita da piccole baracche, shack, che sono normalmente fatte di zinco e plastica, oppure di legno, normalmente la popolazione che le costruisce direttamente. Sono baraccopoli dove le strade non si differenziano dai piccoli passaggi che separano una baracca dall'altra. Non c'è quindi spazio tra una baracca e l'altra, ma non c'è spazio né per vivere né tantomeno per giocare, quindi non ci sono spazi adatti ai bambini soprattutto. Una cosa tipica di una baraccopoli è il fatto che esistono pochissimi servizi igienici. Questi vengono condivisi da una serie di baracche, per cui normalmente un bagno pubblico viene condiviso da più di 20 persone. I bagni sono esterni, non esistono ovviamente bagni costruiti all'interno di una baracca e per questo sono molto insicuri, soprattutto la sera quando bisogna uscire dalla propria baracca per andare a utilizzare i servizi igienici. Normalmente una baraccopoli dove manca anche la luce elettrica, spesso l'insicurezza è elevatissima e in molti casi di violenza sessuale avvengono soprattutto la sera quando le donne escono perché hanno bisogno dei servizi. Sometimes women are raped because you have to go there even in the evening to go to the loo, which is outside, and it's a list of houses sharing the toilet. And you can find out amongst those shacks, there are shipping houses, and there is so much going on. Tra le varie baracche, alcune di queste diventano degli shabin. Lo shabin è la parola locale per dire il bar dove viene prodotta la birra locale, che è a bassissimo costo, per questo c'è un abuso di alcol elevatissimo. L'abuso di alcol avviene sia tra gli uomini che tra le donne, per cui spessissimo i bambini sono lasciati a se stessi e è facile incontrare bambini da soli abbandonati tra le strade delle baraccopoli. E il tasso di HIV è elevatissimo nelle baraccopoli, anche appunto perché non c'è sicurezza, ma invece la promiscuità e il degrado proliferano. La disoccupazione è a un livello molto elevato e ne segue una mancanza di cibo e di alimentazione corretta. La maggior parte della popolazione che abita a Filippi proviene dall'Eastern Cape, che è la provincia confinante con l'Western Cape, dove sorge Cape Town. La gente viene normalmente in cerca di lavoro, pensando che l'erba del vicino è sempre più verde. Ci saranno più possibilità. Quando arrivano si devono confrontare col fatto che devono costruirsi un posto dove vivere, non ci sono abitazioni pronte per loro, per questo finiscono col vivere in realtà ai margini della città dove si costruiscono questi piccoli shack, baracche fatte di zinco e plastica. Signora Lumfundo, adesso torniamo subito a Filippi, però vorrei chiederle, lei invece da dove viene? I started teaching in 1970. I was still young, I was a teenager. Sono un insegnante dal 1970, ho insegnato per 31 anni, dal 70 al 2001. La mia famiglia è una famiglia di psichiatri, entrambi i miei genitori erano psichiatri. Io sono la prima di otto figli. Ritengo la mia famiglia una famiglia che ha avuto molti, molti doni e molte possibilità, e la nostra grande forza è sempre stata la preghiera, e quindi anche ora alla Casa del Sorriso utilizzo la preghiera per aiutare le donne e i bambini a superare le loro difficoltà. Ora ho preso la pensione anticipata a 50 anni perché volevo poter dare ancora di più di quello che facevo come insegnante. Ho iniziato a lavorare con i ragazzi di strada in un progetto a Cape Town perché vedevo che lì c'era un bisogno, lì era dove era il mio senso di appartenenza, dove potevo dare di più. Per questo, quando è arrivata la possibilità di lavorare alla Casa del Sorriso, sono stata felice di rispondere a quell'annuncio. Vimbo, vimba, na minzo, vimba, vimba, wele wamba, vimba, vimba, na minzo, vimba. Come per i bambini, anche le donne sperimentano moltissime difficoltà e traumi. Le donne normalmente reagiscono alle difficoltà e alla violenza in modo diverso dalle ragazze. Le donne, dopo una situazione di abuso e di violenza, tendono a diventare protettive verso se stesse e i loro figli. mentre i bambini aspettano che qualcuno venga a proteggerli e a prenderli sotto la propria ala protettiva, le donne vanno in cerca d'aiuto e cercano di fare qualcosa. Quando una donna decide di uscire da una situazione di abuso, allora diventa protettiva anche verso i propri figli. Nel momento in cui resta nella situazione di abuso, invece è difficile che si occupi di se stessa e anche dei propri figli. Soltanto quando decidono di uscire da una situazione di abuso, allora il loro amor proprio ritorna e possono ricominciare la loro vita. Finché restano in una situazione di vita abusiva, non si considerano nemmeno all'altezza delle altre persone, delle altre donne. But if they are still there in the abusive life, they don't see themselves as human being like other people. Vimbo! Vimba, na minzo vimba. Vimba, wele wamba vimba. Vimba, na minzo vimba. 4 anni di lavoro alla Casa del Sorriso. Mamma Pilisani torna a raccontare la sua storia, la storia di un progetto che sta aiutando centinaia di donne nell'estremo sud del continente africano. There is not much, but there is something happening. Un tempo moltissime delle problematiche che le donne affrontavano non se ne discuteva, erano problemi considerati problemi di famiglia, problemi interni. Se una donna decideva di andare alla polizia per denunciare un caso di abuso o di violenza, la polizia stessa riportava la donna dalla famiglia di origine, dal marito che era l'abusatore, perché non era una questione sociale ma una questione interna, e quindi normalmente nulla cambiava. Oggigiorno invece una donna che va alla polizia può essere poi accompagnata al tribunale per ottenere un ordine di restrizione, per cui ottenere l'allontanamento del marito. And apply for court in that dictate the court and then it will be catered for. Also the thing of the children. Un'altra cosa che è cambiata è il fatto che le donne, ora che lasciano il marito, possono portare i figli con loro, andare via con i bambini, mentre invece un tempo i figli erano considerati di proprietà della famiglia, del marito, della famiglia d'origine, e quindi se la donna decideva di lasciare il matrimonio, uscire dal matrimonio, non poteva portare i figli con sé. Un tempo le donne erano, come sempre state più sensibili alle problematiche di salute, per cui fare ad esempio un test dell'HIV, ma difficilmente un uomo andava e faceva un test. Ora se una donna fa il test e risulta positiva, può dire al marito di andare e fare anche lui un test. Sebbene ancora oggi si veda che è una minoranza rispetto alle donne, gli uomini sono ancora la minoranza a andare a fare un test dell'HIV, si può vedere comunque un incremento del numero di uomini che vengono anche alla Casa del Sorriso per essere testati, e c'è una sensibilizzazione in generale a livello comunitario, per cui anche gli uomini parlano di queste problematiche. È vero che nelle township si pensa che un rapporto con una donna vergine possa curare l'AIDS? They believe it. There are people who are stubborn. Molte persone sono ancora ci credono e sono convinti che facendo sesso con una vergine è possibile curare l'HIV. Per questo ci sono moltissimi casi di violenze sessuali e di stupri che sono sempre in costante aumento. È come quando si dice che troppo zucchero fa male o mangiare carne tutti i giorni fa male. La gente continua a mangiare molta carne e usare tantissimo zucchero. There are people who are still stubborn. 20 anni dalla fine dell'apartheid, ci segnali dei cambiamenti positivi? According to the radios, to the media. Alla televisione, così come alla radio, si sente molto parlare del bisogno di portare un cambiamento e di cambiare l'educazione dei giovani. Però quello che si sta facendo non è abbastanza. I matrimoni combinati continuano ad esistere e la dote che viene pagata dalla famiglia dello sposo alla famiglia della sposa è ancora un elemento chiave per far sì che questi matrimoni funzionino, e per cui la moglie non possa tornare dalla famiglia d'origine ma debba restare col marito, sebbene violento sia. E un altro elemento che dimostra che il cambiamento è molto lento è il fatto che le donne continuano ad avere molti diritti, e anche quando le persone, gli uomini di potere, le persone al potere parlano di queste problematiche, basta vedere chi è che ne sta parlando, sono uomini, la maggioranza delle persone al potere sono uomini, e pochissime donne hanno invece una posizione che potrebbe fare la differenza. I see so many men on the positions of them should be women also in those positions. Torniamo allora a Filippi. Che cosa accade nella casa? Quante persone vengono da voi? Quante donne vengono da voi e quali sono le loro storie? At the moment I've got 11 women. And 14 children. Al momento nella casa abbiamo 11 donne e 14 bambini, ma io sono partita due giorni fa da Cape Town, potrebbero già essere arrivate altre 5 donne in questi due giorni. I casi di emergenza infatti sono costanti e possono, quindi il numero delle ospiti della casa fluttua continuamente. Le donne arrivano alla casa o perché accompagnate dalla polizia, perché sono andate a fare una denuncia alla polizia, o dagli assistenti sociali che conoscono i servizi che offriamo, oppure perché loro hanno sentito parlare della Casa del Sorriso, delle possibilità di aiuto che si possono ricevere. Dal momento in cui entrano alla casa si può vedere che sono vittime di abusi perché non si stanno prendendo cura di loro stesse e non si prendono cura veramente dei loro figli. And then that's where chance we come in casa there so it comes in. Mostly of the women who come to the shelter are HIV positive. Molte delle donne che vengono alla casa sono sieropositive perché normalmente quando una donna scopre di essere sieropositiva viene cacciata dal marito che l'accusa di essere colei che ha portato la malattia nella casa e ha portato la rovina. Go with your HIV positiveness. In fact, when they come in, we advise them to go. Quando arrivano alla casa, consigliamo sempre loro di fare un test dell'HIV, che sebbene sia confidenziale, serve per poterle seguire nel momento in cui servono i trattamenti e il supporto necessario a una persona sieropositiva. Normalmente sono soltanto io, la responsabile della casa, a sapere qual è lo status di una donna. To be open, they can be open. Yeah. Then we help them to. È importante per noi sapere qual è il loro status per poterle aiutare e essere sicuri che continuino il trattamento dei medicinali e è anche importante perché serve avere un'alimentazione corretta, altrimenti anche i medicinali non possono avere lo stesso effetto che avrebbero ovviamente su uno stomaco vuoto. Then you see now the true colors, the self-esteem is back. Ora quando iniziano a stare meglio e il loro amor proprio è ritornato, sembrano anche più belle, quindi per me è importante ricordar loro non tornare da tuo marito anche se ora sembri come eri al tempo in cui lui forse si è innamorato di te. You look like you were before he caught you. And their minds now are at ease because psicologicamente iniziano a stare meglio e anche vedendo che i bambini sono seguiti, vanno a scuola, fanno un dopo scuola, hanno tutti i trattamenti di cui hanno bisogno e le donne possono occuparsi veramente della loro ricostruzione personale. You can see that they are at ease. Yeah, the other thing is when they cook. Non so se è la generazione attuale che non sa più cucinare o non si occupa più delle cose di base, ma quando arrivano spesso queste donne non sanno né cucinare né utilizzare un forno. Per cui, anche se sembra banale, è importante cominciare dalle cose più semplici, come cucinare e utilizzare un forno, per potersi occupare nel modo più efficace della propria famiglia. Non abbiamo detto, qual è l'età media delle ragazze che arrivano alla Casa del Sorriso? Normalmente non possiamo, l'età media è l'età dei 18 anni in su, ma non persone troppo anziane, perché è l'età in cui hanno figli e hanno bisogno di ricominciare la loro vita, ma non possiamo prendere minorenni per ragioni di istituzione. Ecco, in conclusione, mamma Pilisani, questa sembra una sorta di una goccia, parla di 11 donne, forse qualcuna in più in queste ore appunto in cui lei è assente dalla Casa del Sorriso a Città del Capo, ma insomma qual è la cosa che la rende più orgogliosa di questo progetto e qual è la ragione in fondo da condividere con noi per cui queste cose è opportuno farle, vale la pena farlo anche se i numeri possono apparire piccoli in un sistema molto molto grande? Yeah, if you can look at the numbers. Se guardiamo i numeri in un anno, non stiamo parlando di 11 donne, ma possiamo averne aiutate anche 100 in un anno. Quindi non è una piccola goccia nell'oceano, ma ci sono persone che vengono aiutate costantemente. E se non fosse per Chesby, che ha portato la Casa del Sorriso direttamente in una baraccopoli, non c'era niente del genere a Città del Capo e nemmeno ora. Non c'era quando è stata costruita e non ci sarebbe nemmeno ora una struttura così importante per la protezione delle donne. Ma non abbiamo spazio per così tante donne. We have a limited number. E dunque, qual è la sua massima soddisfazione? Quando è che dice veramente sto facendo qualcosa di davvero bello? When they come in, it's like chaos. Inizialmente è molto, quando una donna arriva, per almeno una settimana si può parlare di confusione totale, in cui è difficile solo stabilire le regole di convivenza all'interno della casa, come vivere insieme in modo adeguato. Ma nel tempo, quando le donne iniziano a seguire training, che possono essere training per imparare un lavoro, come diventare assistente infermiera, lavorare in un ristorante, lavorare nel sistema turistico, piuttosto che imparare ad usare un computer, allora si comincia a vedere il cambiamento. Uno dei momenti più importanti, più di grande emozione per me, è quando le donne finiscono i loro corsi di formazione. E normalmente è la prima volta nella loro vita che raggiungono un livello di questo tipo e possono poi cominciare la loro vita autonoma. E molto spesso, quando, anche se non vivono più nella Casa del Sorriso e hanno iniziato la loro vita, ritornano solo per fare visita, per tornare per ringraziare, e in quel momento so di aver fatto qualcosa di importante e di aver fatto la differenza per loro. I've done a good job. La la non kinchi la la. Titona non kinchi tona. Kulala non kinchi la la. Titona non kinchi tona. Grazie ancora a Mamma Pilisani e alla sua storia, al suo coraggio, grazie al CESVI che sostiene appunto questo progetto sudafricano Città del Capo, a Peter Bescapè in regia, a tutti voi naturalmente che siete stati all'ascolto. Non mi resta che salutarvi e augurarvi un ottimo fine settimana. A presto!